Giovedì 15 maggio 2009, presso la fiaschetteria Canetti di Locarno, si è tenuto un momento informativo e di discussione sul ricorso all'estensione della legge anti-hooligans. Per maggiori informazioni sul ricorso all'estensione di questa legge, visita il sito web www.inventati.org/t/riguarda. Registrazione a cura di scatolanera.noblogs.org. Allora, ciao a tutti, ciao a tutte. Ciao, fatemi dire. Allora, questo è un momento come altri che abbiamo fatto in giro per spiegare un po' il lavoro che abbiamo fatto come ricorso alla famosa estensione della legge anti-hooligan. E quindi la GBB, insieme al Sindacato della Comunicazione, al Molino. Mi sembra che siano tutti, e chiaramente ha un team di avvocati che si è messo a disposizione, ha redatto un ricorso per impedire che diventi effettivo l'allargamento delle misure anti-hooligan a diversi altri aspetti della vita quotidiana. Quindi loro vi faranno una breve, lunga, media, non so, spiegazione di quello che cosa consiste questo ricorso, e poi se avete dei dubbi, delle domande o delle cose, solo una cosa, una parentesi, che cioè, è vero che loro sono degli avvocati, è sempre bello avere gli avvocati con cui discutere, cercare di mantenere un po' la discussione sul generale, quindi lo so che molti di voi hanno un sacco di gabole personali, sfide e puttanate varie, non tartassateci gli avvocati, che dopo vi basta la voglia. Io nel frattempo vi faccio passare questo, che è un riassunto breve di quello che poi loro spiegheranno. È scritto abbastanza bene, quindi potete leggervelo adesso, dopo, più tardi. E questo, che è il volantino che abbiamo fatto per spiegare nella pratica in che cosa consisterebbe e consisterà l'introduzione di l'allargamento di queste leggi. Allora, il concordato, sostanza, per adesso non è ancora stato applicato, però è in vigore, quindi da adesso o da quando è stato entrato in vigore, cos'è? Gennaio? Questo gennaio, nonostante il ricorso, potrebbe già essere applicato. Il concordato in tre parole prevede che la polizia, ripeto la polizia, sulla base di semplici sospetti di comportamenti violenti in ambito di manifestazioni sportive, ma non solo, possa adottare tutta una serie di provvedimenti che vanno dal meno incisivo, che è il divieto di accedere a una determinata area in un determinato giorno. Poi segue a cascata l'obbligo di presentarsi in polizia sempre nel contesto di una determinata manifestazione, e va a finire con la misura più incisiva, che è il fermo di polizia, che è deciso da non da un magistrato, ma da un organo di polizia, quindi un poliziotto, e che può protrarsi come minimo per 10 giorni. E la particolarità del Ticino è che concordato vuol dire che sono i direttori dei dipartimenti di giustizia di tutti i cantoni sono accordati per approvare questo concordato, che dovrebbe applicarsi in tutti i cantoni che vogliono adottarlo. Adesso non so a che quota siamo. C'è Lucerna che sta. Cioè, il Ticino l'ha approvato, ma non è il solo. A partire dal momento che ci sono tre cantoni, entra in vigore. Ce ne sono almeno tre. Lucerna e Zurigo. Come? Dopo torno su queste cose. Però la particolarità è che il Ticino è andato oltre, nel senso che il concordato si applica solo a personaggi violenti o creduti violenti dalla polizia nell'ambito di manifestazioni sportive, calcio, hockey principalmente, ma il Ticino ha detto no, ma applichiamolo a tutti i generi di assembramenti di persone, quindi manifestazioni e qualsiasi altra cosa, carnevali e via dicendo, feste. Dal momento che ci sono tre persone, può essere, la polizia può adottare questo tipo di misure. Perché tutto è partito da un'idea che è sorta con gli europei di calcio, di la volontà a livello della confederazione di arginare il fenomeno dell'uliganismo, e in realtà poi i cantoni hanno, la confederazione ha detto: noi non vogliamo interessarci di questa questione a livello a tempo indeterminato, noi ci riguarda soltanto quello che è gli europei di calcio e i mondiali di hockey, poi il seguito lo lasciamo ai cantoni. I cantoni hanno raggiunto questo concordato e il Ticino ha fatto ancora il primo della classe e ha esteso la legge a tutti i tipi di manifestazioni, cosa che nessun altro ha pensato nemmeno di fare. Proprio è stato il Ticino che si è dimostrato il primo della classe. Il ricorso è piuttosto tecnico, quindi ci sono argomenti, diciamo, di costituzionalità che riguardano soprattutto le libertà individuali, e poi invece ci sono degli argomenti molto più tecnici che sono quelli che poi in realtà hanno maggior probabilità, per una questione anche giurisprudenziale, di ottenere qualche risultato, che sono quelli che riguardano i diritti stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce dei criteri molto precisi entro i quali la persona può essere fermata, può essere mantenuta in stato di fermo, quali sono i principi che possono portare a un fermo, a delle misure coercitive. Sono tutti dei criteri che una lunga giurisprudenza a livello di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, e che a nostro modo di vedere, anche a livello tecnico, questa legge assolutamente non rispetta minimamente, no? Perché vengono invertiti un po' tutti i meccanismi classici del diritto, un'inversione degli oneri delle prove, una presunzione di innocenza a farsi benedire, si presume che uno sia colpevole soltanto ha partecipato o è stato visto dalla polizia, bastano denunce di privati per essere definiti prove contro la persona. Sono tutti dei piccoli dei criteri che assolutamente non sono in linea con quanto la scienza giuridica ha stabilito in anni e anni di giurisprudenza. In questa legge sono stravolti in un così 448, ecco. Quindi il discorso da un aspetto vuole puntare a dire: sono misure che non hanno nessuna necessità di esistere, e dall'altro dire: sono misure che comunque sono sbagliate nella loro formulazione, nella loro essenza. Quindi non voglio entrare nei dettagli, perché è un ricorso di 90 pagine, un po' tecnico anche, però per dare un'idea generale, no? Giusto, dico. Forse. Le richieste sono quelle, chiaramente, che questa legge venga annullata. No, in blocco. No, forse la domanda è stata fatta prima, a sapere cos'è definito comportamento violento, che poi fa scattare le misure che abbiamo detto prima. E la legge, sì, il concordato, che è una legge varata che si applica per diversi cantoni, prevede che è considerato o è presunto comportamento violento, leggo, le pertinenti sentenze giudiziarie, che ci potrebbe ancora stare, posto che una persona viene condannata non vuol dire che si rimetta a fare per quello per cui è stata condannata, ma anche solo le denunce di polizia, che sono i famosi rapporti di segnalazione. Un poliziotto vede un comportamento suscettibile di essere qualificato come reato, fa il suo rapportino al superiore, quello è già, crea già la presunzione che la persona indicata in quel rapporto abbia commesso comportamento violento, e che quindi alla fin dei conti si possa arrivare sempre da parte della polizia a un fermo preventivo di polizia, che si protrae anche oltre i 10 giorni. Poi, sempre come presunzione di comportamenti violenti, ci sono le dichiarazioni attendibili o registrazioni visivi, sempre della polizia, delle dogane, vabbè, ma anche del personale addetto alla sicurezza delle società sportive. Quindi segnalazioni da parte di privati, in fin dei conti. Un'altra presunzione è data dal fatto che una persona abbia già un divieto d'accesso a uno stadio. Quindi uno ha un divieto, in fin dei conti non entrerà mai più nello stadio e si espone comunque a tutta una serie di misure che fanno in modo che difficilmente potrà rientrare in quello stadio. In estrema sintesi, un poliziotto, la polizia non deve rispettare nessuna particolare formalità, no? Può tenere una sua banca dati e ogni qualvolta c'è una manifestazione prendere dei provvedimenti che più gli aggradano nei confronti di uno, dell'altro, delle persone che in qualsiasi maniera ha acquisito i propri protocolli, c'è sta la sostanza, nel senso, cioè, le polizie tengono un loro schedario e dicono: ah, quello è un violento. Sulla base di questo schedario, presa la misura, poi la persona potrà eventualmente fare ricorso, ma sarà troppo tardi perché la misura sarà già stata presa, quindi nella maggior parte dei casi sarà un ricorso eventualmente a posteriori, quindi di efficacia piuttosto relativa. Nella misura del fermo magari c'è la possibilità di fare un ricorso, ma anche lì a un pretore, quindi bisogna nemmeno un'autorità che interviene automaticamente in un arresto normale. Nello spazio di una giornata si va di fronte al giudice di istruzione dell'arresto, al GIAR, no? Automaticamente. E lì no, qui è la persona che deve ancora attivarsi, appellarsi a un pretore, fare ricorso. Insomma, i diritti di difesa della persona colpita sono abbastanza lasciati così, insomma, poco considerati, ecco, la sostanza. Quindi la polizia decide e poi chi è colpito dalla misura si arrangi in qualche maniera a farsi valere se li riesce. Questo è un po', proprio detta in parole molto povere, non giuridiche, il concetto della legge, ecco. Io posso aggiungere due cose? No, perché sono due cose che ho risentito che a me particolarmente avevano colpito, che altre cose che vengono considerate comportamento violento sono ad esempio il danneggiamento, che per esempio potrebbe essere un graffito. Il graffito viene poi, correggetemi se sbaglio, considerato danneggiamento. La sommossa, che sommossa è questa simpatica cosa che stanno tirando fuori ultimamente, che assomiglia un po' a quello che in Italia si chiama concorso morale, che era una legge che viene dal fascismo, che basta che tu sei lì mentre succede qualcosa e non intervieni, che sei considerato comunque parte di quello che succede e quindi sei in qualche maniera colpevole di quello che sta succedendo. E tra le altre cose c'è il trasporto nel viaggio di andata e ritorno di armi, esplosivi o pezzi pirotecnici. Quindi tu c'hai la torcia in macchina e stai andando a pescare il giorno che c'è la partita. Adesso questo è l'esempio un po' estremo, però neanche l'utilizzo, ma cioè il semplice trasporto, no? E rispetto per esempio alla sommossa mi viene in mente, cioè, sull'onda di questa repressione che piace tanto, a Zurigo, scriveva La Rosso un po' di tempo fa, in questo momento stanno facendo una banca dati che raccoglie i nominativi e le facce probabilmente delle persone che non schifano la violenza, nel senso che se c'è una rissa e tu sei lì a guardare vuol dire che da qualche parte non è che non ti dispiace, no? Quindi davvero, cioè, stanno arrivando dei livelli assurdi, non è che c'è più bisogno che tu dai i cartoni a qualcuno, ma se qualcuno di fianco a te sta facendo una rissa e tu non intervieni... Cioè non è che non intervieni? No. Sei lì? Sì, sì. Sì. Al contrario, cioè, se non scappi. Esatto, se non intervieni. No, al contrario. Se. No, tu sei uno che se lui non si picca io devo scappare, altrimenti... Cioè non è che puoi davvero difendere. Sì, volendo sì, però devi proprio dimostrare che hai proprio però è proprio voluto, l'estremizzazione, dopo essere arrivata la banca dati dei hooligan, dopo i violenti, cioè, arrivano al livello di dire ok, facciamo una banca dati di quelli a cui la violenza non li fa scappare, ecco. Sono veramente fuori. Beh, questo è un po' le, no? Le grandi linee della cosa, poi. Forse un'altra cosa da dire è che sia il concordato, sia l'approvazione del concordato, sia l'approvazione del concordato che si applica ai cantoni che vogliono aderire, che la legge cantonale che estende le regole del concordato a tutti i tipi di assembramenti di persone, non so, sarà stata discussa in Parlamento, io non c'ero, ma ci credo. Non lo so, facciamo anche 20 minuti, ma non c'è stata una vera e propria discussione, cioè, sia il messaggio del governo che il rapporto della commissione legislazione, il rapporto stesso è andato oltre il messaggio del governo o qualcosa del genere, comunque non ci si è veramente interrogati sulle implicazioni di queste leggi, ma si è dato, c'è qualche parlamentare che è intervenuto dicendo ma comunque abbiamo fiducia in chi applicherà la legge, che è la polizia, comunque la applicherà sempre nel rispetto del principio della proporzionalità. E ultimamente mi sembra che anche la stampa punti abbastanza sul fatto di applicarla questa legge, cioè nessuno si è accorto che pochi si sono accorti che è stata adottata, adesso qualcuno si ricorda che è stata adottata e dice ma adesso basta che la polizia deve star lì ogni domenica a correre dietro a chissà chi, applicate questa legge, buonanotte, proviamo, e tecnicamente la possono applicare, no? Perché al Tribunale federale non è neanche stato chiesto, ma non c'è un effetto sospensivo, quindi la legge, ripeto, è in vigore, quindi può già essere applicata. Non l'ho ancora stata, a mia conoscenza. Cioè dietro ci può essere anche un gioco un po', un'idea un po' perversa, che è quella delle autorità di dire, ma noi non abbiamo voglia di alternativa a loro, è dire ogni volta abbiamo bisogno di un apparato di sicurezza, quando c'è una partita, quando c'è una manifestazione, per tutelare l'ordine, no? Che costa, che non lo so, io insomma, che deve essere studiata e messa in atto. E invece di fare questo c'è qualcuno che ha pensato no, non facciamo più l'apparato di sicurezza, no? Che magari è una questione economica, non lo so, prendiamo tutti quelli che sappiamo che possono fare possono essere un disturbo e li impediamo di arrivare a questa manifestazione, allora con diversi gradi di intervento, proviamo la prima volta a dirgli che devono venire a firmare in polizia, poi se non vengono la volta dopo li arrestiamo, ecco. Cioè, poi se abbiamo sbagliato e abbiamo preso uno che invece vabbè, no? Sono comunque tutti degli hooligan, no? Il concetto è un po' quello, dire questo è un po' e si è visto anche un po', mi sembra l'ultimo carnevale, mi sembra che adesso non mi ricordo quale, ma non so se era il Rabadan, comunque alcune società di carnevale hanno introdotto le diffide e come ho detto prima la diffida da parte di un privato, perché alla fine dei conti la società di carnevale, come può essere l'associazione di calcio che ha lo stadio, può diffidare una persona dall'entrare da quello stadio e questo apre la porta per la polizia per prendere tutta una serie di misure. E contro una diffida non è che siano andati molti mezzi per contrastarla, cioè non ne abbiamo individuati molti, se non nessuno. Tipo, se non fa causa alla società dicendo adesso tu giudice mi accerti che la diffida non è giusta. No? Che anche adesso si è parlato soprattutto dei casi più diffusi, che non so, il carnevale, gli stadi, però anche uno degli aspetti che preoccupa tanto è che questo è applicabile anche a tutte le manifestazioni politiche, quindi questo restringimento delle libertà che abbiamo di protestare contro quello che vogliamo e di chiedere altre cose, che potranno venire quindi applicate per qualsiasi genere di manifestazione, che può essere dal 1° maggio all'anti-UEFA a uno sciopero, e quindi anche una serie di persone, cioè sono più gli ambiti in cui le nostre libertà vanno un po' tanto. È uno strumento in mano alla polizia in sostanza e a chi gestisce la polizia, ecco, no? che invece di dover intervenire quando c'è un pericolo di eccessi in una manifestazione tutelando quelli lì, decide di porre in fermo a certe persone. È chiaro che il pericolo è pericolosissimo, l'abuso di questa legge è semplice. Sì, una cosa. Ma secondo me è il fatto che crea una situazione perversa, perché le persone in questo modo cosa rischiano di fare? Di non più andare alla manifestazione, perché io vado a una manifestazione rischio di essere accusato di sommossa per il semplice fatto che non mi distanzio da quello che sta succedendo. Io devo andare a rischiare di prendermi la denuncia eccetera per una manifestazione, cosa succede? Decido di stare a casa, perché si è visto nelle ultime manifestazioni cosa che fanno gli arresti di massa, le identificazioni di massa, e quindi cosa fanno? Le persone desistono, dicono io ho comunque una mia vita privata e c'ho questo problema, cosa faccio? Preferisco non più andare a queste manifestazioni, perché altrimenti rischio che poi abbia delle ripercussioni personali. Quindi effettivamente forse è vero che sono delle misure preventive, ma preventive in che senso? Limitando i diritti delle persone, perché il diritto di andare a manifestare, il diritto di andare a vedere anche una partita di hockey, perché io vado in trasferta con dei miei amici, succede qualche cosa, impacchiato tutto il pullman, cosa succede? Ci vado anch'io di mezzo, anche se magari non ho fatto assolutamente nulla, e facendo così le persone cosa fanno? Desistono ai loro ambiti di vita sociale, che può essere quello di andare allo stadio, quello di poter andare in piazza, poter andare ai concerti, oppure andare al carnevale. Ma quello che avevo già detto per l'inizione, secondo me la cosa più assurda è come tutti questi meccanismi vengono attuati. Cosa è successo? Si hanno creato una situazione eccezionale che era quella di Euro 08. Hanno detto, oh, c'è la situazione eccezionale, arrivano gli hooligans da tutta Europa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una legge speciale. Una legge speciale, se è speciale non è qualche cosa che poi deve entrare nel quotidiano, è speciale per una situazione d'emergenza. La situazione d'emergenza è terminata, sì, hanno detto che era anche per i mondiali di hockey, ma magari hockey non ci va nessuno. Quindi non è successo assolutamente nulla. Ancora prima che questi che mondiali di... Perché non è la scuola. Ancora prima che questi mondiali e che questi europei finissero, avevano già proposto l'estensione di questa legge. E l'hanno proposta senza nemmeno sapere se questa legge fosse effettivamente efficace oppure meno, perché tutti continuano a parlare di questa legge anti-hooligans, però durante gli europei non è stata applicata, non è successo assolutamente nulla. Qua i giornali continuano a parlare, c'è la legge anti-hooligans qua, bisogna attuarla, però tutti quelli che parlano probabilmente non sanno nemmeno a cosa serve, perché se è una legge che è applicata e poi non funziona, c'è qualche cosa che non va in questo aspetto. E quindi mi chiedo, le persone come mai non riescono ad accorgersi di questa contraddizione? Cioè, io mi sento un po' preso per il culo, perché dicono che è una legge straordinaria per una situazione eccezionale. La situazione straordinaria adesso è terminata perché gli europei non ci sono più, però la situazione straordinaria viene estesa a sempre, perché adesso c'è il campionato di calcio e sembra che ogni domenica, nel caso specifico di Bellinzona, ci sia una guerriglia urbana, che poi chi va a vedere cosa succede vede che non è che succede più questa cosa. Ed è quello, sono tutti questi meccanismi. E qua dietro cos'è che c'è? C'è la stampa che permette alle persone di far la stampa che permette alle persone di farsi un'opinione su quello che sta succedendo. La gente si fa l'opinione su quello che scrive la stampa alla fine è un apparato che è funzionale a quello che la polizia vuole, visto che fanno gli articoli prendendo i comunicati di polizia e riproducendoli, e quindi è un sistema perverso dove non c'è una via d'uscita. Quello è un po' il problema. E il fatto principale è appunto quello che fanno sì che le persone desistano a partecipare ai vari ambiti sociali della loro vita, che possono essere lo stadio, le manifestazioni, eccetera. Perché ti colpisce te come persona, anche se non fai niente, per il semplice fatto che sono delle leggi che possono essere applicate in qualsiasi ambito. Sì, c'è un altro elemento, bene o male l'evoluzione della politica del diritto dalla seconda guerra mondiale in avanti tutta una serie di istituzioni ha voluto che determinati restringimenti della libertà personale, no, delle misure coercitive fossero presi e fossero esclusiva prerogativa dell'autorità giudiziaria, no? Questa era un po' la volontà, perché si è stabiliti i principi della libertà personale, libertà di manifestazione, sulla base di tutta una serie di evoluzioni filosofiche, quindi una prerogativa molto del potere giudiziario, quindi di un magistrato che subito verifica se i presupposti per un arresto, di una misura repressiva sono dati. E qui viene un po' anche questi basi vengono un po' così, vengono un po' meno, perché questi poteri vengono di nuovo trasferiti all'autorità di polizia, no? Decidere quando e come limitare le libertà di una persona, no? Libertà di movimento, libertà di riunione, libertà di libertà personale addirittura, quindi col fermo di polizia, quindi cioè vengono un po' proprio a sovvertiti alcuni principi base proprio della Costituzione, ma insomma non solo Costituzione Svizzera, anche di patti internazionali. E viene a mancare il controllo giudiziario di una decisione che è presa e eseguita dalla polizia, perché se voi chiedete a 10 poliziotti, 7-8 di quelli secondo me vi diranno ma al Dylan Köhn arresta più nessuno, perché c'è il giudice sopra che dice no, ci sono gli elementi per arrestare, cioè un conto è commettere un reato, un conto è dire beh tu hai commesso un reato e ti sbatto dentro e ti tengo dentro. Invece questa è spacciata come misura preventiva quando il reato non è ancora stato commesso e viene spacciata come esce dall'ambito penale, perché quale, essendo preventiva, è una misura amministrativa, quindi dico no, ma questo non c'entra niente con la violazione del codice penale in sé, quella resta dal magistrato, non c'è nessun problema, ma qua noi cerchiamo, così proclama la legge, di evitare che vengano commessi atti violenti, quindi cerchiamo di tutelare la popolazione, quindi chi può essere contro questa legge? Ci mancherebbe. C'è una forte resistenza, cioè il Tribunale federale, che comunque è un'autorità giudiziaria, non è completamente scevra da considerazioni, da pressioni, considerazioni un pochettino più. Sta registrando, non posso dire. No, ti posso dire solo una cosa, cioè che ci sono i due livelli, quello che noi un po' come gruppi che ci siamo trovati abbiamo organizzato, cioè c'è il livello proprio del ricorso, quindi le 90 pagine che gli avvocati hanno redatto al Tribunale federale, che, e d'altra parte quello che un po' ci interessava, per quello che abbiamo fatto questi momenti, è il fatto che se ne parlasse, nel senso, cioè il fatto che nessuno non sa un cazzo e che nessuno non dice niente. E che l'hanno fatta passare sotto, beh, gli hooligan sono brutti e cattivi, la chiamiamo legge anti-hooligan, la estendiamo a tutti, sempre chiamandola da qualche parte estensione alla legge anti-hooligan, cioè il Gran Consiglio, che cazzo di organo è che comanda in Ticino, l'ha votata con 78 voti a zero, nel senso dai socialisti agli UDC l'hanno votata, senza sapere che cosa fosse. Ed è passata senza che nessuno di voi sapeva cos'era, che comunque voi siete, noi siamo delle persone che magari ci riguarda più da vicino, però può davvero toccare tutti e nessuno sa che cos'è e nessuno sa che esiste e non è che, cioè lo scopo è che con il ricorso riusciamo a bloccarla, ma secondo me parlandone, discutendone e raccontandolo a chi ci sta intorno, magari la tiriamo fuori e forse speriamo qualcuno si indigna come siamo indignati noi. Solo una curiosità, ma